Epilogo. 24 marzo 1928. Gonfiore della milza in aumento. Ipertrofia rilevabile anche al tatto. Tosse molto produttiva, espettorato catarroso, senza traccia di sangue. Feci ipocromiche. Temperatura 37,8 stabile. Costante perdita di peso, 2 kg nell'ultima settimana. Bogdanov lascia cadere gli appunti sul letto tra lui e Vlados. Se non fosse per la sporgenza dei piedi, si direbbe che la coperta poggia sul materasso senza niente in mezzo. Un cranio velato di pelle dorme al centro del cuscino. Danny è ogni giorno più magra, senza rimedio. La malattia procede inesorabile e misteriosa. L'unica cosa certa è che la ragazza sta sempre peggio. 2 trasfusioni in 5 mesi non hanno sortito alcun effetto. Vlados dice che bisognerebbe ricoverarla in un ospedale più attrezzato. Lui stesso ha tentato una terapia alternativa, senza risultati. Se ne sta in piedi, accanto alla sponda del letto, le braccia incrociate. Natalia si sforza di garantire a Danny giornate serene. Protegge le sue abitudini quotidiane, rimpiazza quelle che non sono più possibili. Lunghe letture ad alta voce al posto delle passeggiate fuori dall'istituto. Lavori di cucito invece di riparare la vecchia radio. Pasti a orari regolari, nonostante l'inappetenza. Chiacchiere e risate, per soffiare via l'inquietudine che ristagna nella stanza. Di questo passo la ragazza non vedrà la fine del prossimo mese. Aprile, che illude i fiori, li fa sbocciare e poi li uccide in una notte di gelo. Serve una mossa che riapra la partita. Come con l'anemia di Krasin, quella che nessuno era in grado di curare. «Ho deciso di tentare una trasfusione incrociata», dichiara Bogdanov senza esitazioni. Natalia solleva il capo dal flacone che sta riempiendo, sul tavolino, accanto alla finestra. Stenta a credere a quel che ha appena sentito, ma Sasha non è tipo da far proclami a vuoto. Se iniettiamo il sangue della ragazza in un individuo sano, il suo organismo produrrà anticorpi e potremo passarli a Danny con la trasfusione inversa. Così ci ritroveremo con 2 malati, anziché una sola. Vlados ha parlato senza cambiare posizione, come se potesse muovere soltanto le labbra. «Sappiamo che la sua patologia non è infettiva», replica Bogdanov. «Nessuno di noi risulta contagiato». «Potrebbe non trasmettersi per via aerea, ma quanto al sangue...» «Quando abbiamo inoculato i germi sul primo coniglio, c'è stata una risposta immunitaria. L'animale stava bene, finché non ha ricevuto la seconda iniezione». Vlados appoggia entrambe le mani sul bordo del letto. Si sporge in avanti, abbassando la voce per non svegliare Danny. «Non troverete mai un volontario per un esperimento simile». «Il volontario sono io», dice Bogdanov. «Voi?» «Io e la ragazza abbiamo sangue compatibile». «È una follia!» «Proprio per questo intendo accollarmi il rischio. E poi ho buone ragioni per credere di essere immune alla tubercolosi. E se questa malattia è un ceppo di quella...» Vlados si raddrizza e raggiunge la finestra. Fa un cenno a Natalia, come per invitarla a dissuadere il marito. «Il coniglio di 16, insiste restandole a fianco, è morto per inoculazione di micobatteri bovini, seguita alla prima con i germi sconosciuti. Voi stesso avete ipotizzato un'ipersensibilità». «Non vedo il nesso», ribatte Bogdanov. «Dite di essere immune alla tubercolosi. Da cosa lo deducete?» La sagoma di Anfusa, stagliata nella luce del pomeriggio, all'uscita del parco di Montsouris, molti anni prima. «Ho vissuto con tubercolodici in passato e non mi sono mai ammalato». «Dunque siete entrato in contatto con la malattia una prima volta e se faceste altrettanto con il morbo di Danny potreste avere la stessa reazione di D16, ipersensibilità e morte immediata». «Certo, il pericolo esiste. Le vie nuove sono disseminate di incognite. Devi cogliere l'occasione, anche se non è il momento giusto, perché non è mai il momento giusto». «Mi pare evidente che tutti noi siamo già entrati in contatto con il morbo di Danny, attraverso il respiro. Se la reazione che dite doveva innescarsi, lo avrebbe già fatto». Vlados non molla, difende la posizione, ma la voce tradisce una premura sincera. «Gli anticorpi che le servono potrebbero già essere nel vostro sangue. Perché allora non lo donate alla ragazza senza una trasfusione incrociata?» La proposta è ragionevole, ma Bogdanov scuote la testa. «La ragazza sta morendo, resta poco tempo. Non posso essere certo di avere già sviluppato gli anticorpi. Iniettarmi il suo sangue è il modo più sicuro per ottenerli. Abbiamo aspettato fin troppo. Questo istituto è nato per sperimentare il collettivismo fisiologico e deve essere quella la nostra terapia d'elezione. Ne fate una questione di principio, obietta Vlados, esasperato. Ma questo è un problema medico, non ideologico. Un giorno capirete che le due cose non sono distinguibili, conclude Bogdanov, con un tono che non ammette repliche. Vlados capisce che lo spazio per discutere è finito, la decisione presa. È in gioco la ragione di una vita intera. Attraversa la stanza con passi rassegnati. La porta si chiude. Il respiro profondo e stentato di Danny rimane l'unico rumore tra le quattro pareti. Natalia si siede e domanda che ne sarà della ragazza se lui dovesse ammalarsi. L'interrogativo non pretende risposta, ma è l'unica obiezione sensata ricevuta fin qui. Perché Danny è la sola persona, l'unico organismo che abbia ancora bisogno di lui. Non così la rivoluzione o la cultura proletaria, tantomeno l'Unione Sovietica. L'istituto ha ormai una buona squadra di medici che possono dare al collettivismo fisiologico le basi scientifiche che ancora gli mancano. Anche Vlados, dopo tutto, è uno spirito critico che può giovare all'impresa. Kotick è ormai l'università e Natalia... Natalia vuole sapere quanto sangue prelevare a Danny. «Tu che ne pensi?» domanda Bogdanov. «Non più di 300, per non indebolirla. Preferisci allestire qui o nella sala trasfusionale?» «Meglio qui, staremo più tranquilli. Allora vado a prendere l'occorrente.» Natalia si avvicina al letto, occupa la stessa posizione di Vlados, forse addirittura la stessa mattonella sul pavimento bianco. Accarezza i capelli di Danny. «Sei sicuro?» «Sicuro, come lo era Tolomeo che fosse il sole a girare intorno alla Terra, come lo era Copernico del contrario.» «No», risponde Bogdanov, «non sono sicuro che funzioni. Però sì, sono sicuro di doverlo fare. È una possibilità, nemmeno troppo remota. Prendere tempo non avrebbe senso. È l'unica mossa ancora intentata che mi viene in mente e non potrei proporla a nessun altro.» Fuori dalla porta, voci e passi attraversano il corridoio. Chissà se Vlados ha già comunicato la notizia o se ha preferito tenerla per sé. «Anche il mio gruppo sanguigno è compatibile con quello di Danny», dice Natalia. «Cara compagna, mia devota moglie mia e madre, non sei tu ad avere un ultimo compito. Se questa trasfusione incrociata avrà successo, perfino Vlados dovrà ammettere che il collettivismo fisiologico ha una validità terapeutica, che cura le persone, oltre a tenerle insieme. Danny guarirà e ci saranno molte, nuove questioni da indagare, nuove ricerche. E se non dovesse andare, ci darà comunque indicazioni importanti. Ricordi a Bruxelles, quando parlammo di suicidarci insieme?» le chiede. «Tu dicesti che dovevamo vivere per Kotick e per l'avvenire, per batterci ancora per le nostre idee. E io ti diedi ascolto. Il risultato è questo istituto. E qui facciamo trasfusioni. Costruiamo il collettivismo fisiologico.» 24 marzo 1928. Appunti sulla mia 12ª trasfusione incrociata, eseguita dalla capo infermiera Natalia Korsak, con il paziente Lev Koldomasov, di anni 20, gruppo sanguigno 4, qui ricoverato dal 20 settembre 1927. Affetto da una forma sconosciuta di tubercolosi, descritta nella relativa cartella clinica. La mia temperatura corporea è di 36,7 gradi, pulsazioni cardiache 69 al minuto, stato di salute ottimale. Il paziente ha una temperatura di 37,8 gradi e 92 pulsazioni al minuto. Natalia affonda l'ago nel braccio di Danny, mentre l'assistente fa lo stesso con Bogdanov. «Come su una Kun», mormora la ragazza, osservando il liquido rosso grondare dal tubicino di gomma sul fondo dell'ampolla. Dall'espressione del viso si direbbe davvero che la semplice idea di quell'operazione migliori già il suo stato di salute, o quantomeno il suo umore, se esiste una distinzione netta tra le due condizioni. «Anche sul tuo pianeta usate questa procedura?» la seconda Bogdanov. «Abbiamo una macchina», è la risposta. Solo un filo di voce. «Con quattro tubi. Aspira e pompa nello stesso momento, ma così è più piacevole. C'è più tempo per stare insieme.» Bogdanov vorrebbe proseguire la conversazione, ma la lama del bisturi che incide l'incavo del braccio sinistro, gli fa stringere i denti e le parole non trovano l'uscita. Ore 10:35. Mi vengono prelevati 400 cc di sangue, trasferiti al paziente in 25 minuti. Quindi me ne vengono iniettati 300 in 22 minuti. Nel corso della trasfusione compare il solito prurito al braccio, lievemente diffuso anche al petto nei minuti seguenti. Le pulsazioni passano da 69 a 62 al minuto. Lieve arrossamento del viso osservato dagli infermieri. Nel paziente non si riscontrano modificazioni sensibili degli indicatori. Il tè caldo e zuccherato scende in gola a grandi sorsate. Bogdanov e Danny sono stesi uno accanto all'altra. La luce di mezzogiorno filtra dagli scuri socchiusi. Vlados misura la pressione della ragazza con lo sfigmomanometro e lo stetoscopio. Natalia e l'assistente raccolgono aghi, tubi e ampolle sul carrello con le ruote di gomma. La stanza odora di etere e sangue. Ore 12:13. La pressione del paziente è nella norma, tenendo conto della febbre. Gli altri parametri sono stazionari. La mia è 62-108, assai più bassa del solito. Anche le pulsazioni continuano a scendere, 59 al minuto. Avverto un'oppressione al precordio e un dolore da infiammazione in zona lombare. Principio di cefalea. Il letto di Bogdanov viene spinto fuori dalla stanza di Danny. Natalia lo guida nel corridoio, alla luce dei vecchi lampadari della famiglia Igmunov. Fuori scende il buio. Un tram passa sferragliando sulle rotaie della Yakimanka. Si fermano davanti a una porta dipinta di bianco. In nero, sull'anta, una scritta vernice. Ematologia. Ore 12:51. Urine rossastre. Ordino un esame immediato. Forte sospetto di emolisi. A conferma del quadro clinico, un'eruzione cutanea pruriginosa, dietro la schiena e sul collo. Le pulsazioni risalgono rapidamente. Brividi. Temperatura 37,1. I sintomi sono tipici di un'incompatibilità, dichiara Vlados, ma escludo un errore nei test. Il gruppo sanguigno della paziente non ci ha dato alcun problema nelle due trasfusioni precedenti e voi siete ormai alla 12ª. Bogdanov annuisce, resistendo al bisogno di grattarsi. Il mal di testa gli buca le tempie, i fianchi bruciano come sferzati da invisibili vampe. Non è detto che il problema sia nel gruppo sanguigno. Potrebbe essere la differenza di genere. È la prima volta che si sperimenta una trasfusione incrociata tra uomo e donna. Suggerisco di trasfondere al più presto sangue compatibile, continua Vlados, rivolto a Natalia, e di assumere acqua con bicarbonato in grandi quantità. Un minuto più tardi, un bicchiere colmo di liquido biancastro atterra sul comodino di fianco al letto di Bogdanov. 27 marzo 1928. Notte insonne, con vomito e nausea. Al risveglio, febbre elevata, 38,6. Ittero della pelle e della sclera. Orticaria in recessione, forti dolori renali. L'esame delle urine ha rilevato la presenza di emoglobina. L'emolisi ormai conclamata. Kotick entra nella stanza insieme a Natalia. Il pallore del padre lo stupisce. Fatica a guardarlo negli occhi giallastri. In pochi giorni sembra aver incassato con gli interessi gli anni smaltiti grazie alle trasfusioni. Perfino i peli bianchi nella barba sembrano più fitti, i capelli più radi. «Come sta, Danny?» chiede subito il malato, puntando i gomiti sul materasso, per tirarsi su. «La febbre è calata», risponde Natalia, mentre gli sistema il cuscino dietro la schiena, «e mi pare abbia più appetito». «Avevo ragione», commenta lui sottovoce. «E allora perché stai male?» lo incalza Kotick, rabbioso. «Ti hanno avvelenato?» Ipotesi interessante, l'avvelenamento. Magari Volok per eliminare un testimone della sua nuova identità, oppure Vlados, per sete di carriera, o Stalin. Far fuori Bogdanov, il primo eretico, Bogdanov l'irriducibile, Bogdanov l'inutile. Ma non è così. La verità è che il rischio era calcolato. Che cos'è una trasfusione incerta e poco sicura per uno che ha vissuto in clandestinità, ha organizzato rapine, combattuto in trincea? Uno che è passato attraverso due rivoluzioni, una guerra mondiale, una guerra civile. Se uno così smettesse di rischiare per rimanere vivo, potrebbe dire di esserlo ancora? Vlados dice che la malattia di Danny ad averti intossicato, riprende Kotick. Avete stabilito che i suoi bacilli appartengono a un tipo di tubercolosi, ma in realtà non ne sapete nulla. È come bere un liquido supponendo che sia acqua, solo perché è trasparente. Se un tuo amico stesse morendo di sete, non assaggeresti quel liquido prima di farglielo bere? Kotick scuote la testa, non ha voglia di discutere. Siede sul bordo del letto e caccia indietro le lacrime. 2 aprile 1928. Scrivo queste note con difficoltà crescente, per dovere di testimonianza. Il dolore alla schiena è insopportabile. Mi faccio somministrare una dose di morfina. 2 trasfusioni di sangue compatibile non hanno arrestato il progredire dell'emolisi. La temperatura è di 39,1, tachicardia e respiro affannoso. Rileggendo quanto scritto fin qui, noto alcune incongruenze con il quadro tipico delle complicanze trasfusionali da incompatibilità, così come viene descritto nei testi a mia disposizione. Dal momento che mai, prima d'ora, avevo assistito a un simile fenomeno. A quanto si afferma, i primi sintomi si dovrebbero avvertire durante la trasfusione, quando il paziente ha ricevuto appena 50-100 cc di sangue. Tant'è vero che il primo intervento consigliato è quello di interrompere l'operazione. Nel mio caso, invece, ho riscontrato solo deboli avvisaglie riconducibili al quadro clinico, peraltro già provate in occasione di interventi pienamente riusciti. Le prime, vere reazioni avverse si sono manifestate dopo più di 2 ore. Questo rafforza la mia convinzione che si tratti di un'incompatibilità di tipo differente rispetto a quella dovuta a diversi gruppi sanguigni, oppure di un tipo di inconveniente sconosciuto, difficilmente connesso con la malattia del paziente Koldomasov, che, nelle cavie, non aveva mai prodotto effetti di questo tipo. Il massaggio cardiaco risveglia Bogdanov dall'incoscienza. Il volto di Natalia è a una spanna dal suo, affannato ma disteso, come dopo una corsa attraverso i prati. «Siamo alla fine», le bisbiglia, ma lei sorride. Le braccia di 2 infermieri lo sollevano e lo depositano sulla lettiga con le ruote. Escono in corridoio. Vlados grida istruzioni. 4 aprile 1928. Questa mattina, alle ore 11 circa, ho perso conoscenza per la seconda volta. Brividi in tutto il corpo e temperatura a 39,4 gradi. Tuttavia la pelle è fredda e viscida al tatto. Fatico a respirare e spesso devo spalancare la bocca per introdurre aria a sufficienza. Piccoli movimenti, anche solo per cambiare posizione sul letto, provocano vertigine con nausea e vomito. A tratti la vista è sfocata, ostruita da macchie di colore. Natalia è passata con la cena alle 19. Si è scusata con me per non avermi fatto visita durante tutto il pomeriggio. Io invece sono sicuro di averla vista e di aver scambiato con lei alcune battute. È lei che non ricorda o sono io che deliro? Bogdanov prova a sbirciare la copertina del libro che Danny tiene sotto braccio. Senza bisogno di leggere il titolo, riconosce la seconda edizione di Stella Rossa, quella del 1924, con il terzo episodio della trilogia pubblicato in appendice. Un marziano abbandonato sulla Terra. La ragazza attraversa la stanza a passo spedito e già il suo incedere è una sorpresa. Negli ultimi tempi era talmente debole da non riuscire nemmeno ad alzarsi. Raggiunge la finestra e la spalanca. Con le mani sul davanzale inspira l'aria fresca che sa di resina e fiori di tiglio. Quando si volta, Bogdanov nota che ha le gote più in carne e il suo pallore è tornato il solito. «Allora, che ne pensi?» domanda dal letto, combattendo la vertigine che lo prende appena schiude le labbra. «Di cosa?» chiede lei. «Del poemetto finale», dice Bogdanov, vendicando il suo romanzo. «È una storia molto simile alla tua, non trovi?» «Non proprio», risponde lei. «Il tuo protagonista non riesce mai a comunicare con il suo pianeta. Io invece ce l'ho fatta». Danny torna alla finestra e si sporge fuori. Poi si volta verso il letto e con la mano sfiora quella di Bogdanov, distesa sulle lenzuola. Con delicatezza gli infila al dito l'anello di Leonid. «Verranno, ne sono sicura». 6 aprile 1928. Fatico a parlare, sono quasi cieco. I suoni giungono ovattati. Per fortuna ho sempre scritto tutto quello che potevo, perché la scrittura ci proietta oltre noi stessi. Antichi codici di re mesopotamici, poemi, canzoni di gesta, romanzi, trattati filosofici e scientifici. La storia dell'umanità è racchiusa nella scrittura. Anche la mia storia, i miei saggi, romanzi, articoli, un fiume di inchiostro per chi seguiterà il cammino su questa terra. Aiutami a ritrovare i versi che ho scritto per te, sotto i bombardamenti. Li ho scritti sull'orlo dell'abisso, come abbiamo vissuto. Dov'è la tua mano? Tieni, leggi per me, ti prego. Natalia prende il taccuino e si schiarisce la voce. A Natasha. Le vestigia di ciò che ho vissuto volevi raccogliere. I ricordi come un'onda irruppero ancora. Una giovane risata, impeto di sogni, colori di giorni primaverili. E sotto i colpi della sorte, anni di lotta sorda. Tutto senza segreto solo a te posso rivelare, cara compagna, mia devota, moglie mia e madre. 7 aprile 1928. Nel primo pomeriggio, dopo un breve riposo, mi sono risvegliato con la netta sensazione di respirare meglio. La temperatura è scesa a 38,1 gradi e tutti gli altri sintomi risultano attenuati. Dolori lombari, vertigine, nausea, cefalea. Non ho avuto modo di provarmi da solo la pressione, ma i battiti cardiaci sono 89 al minuto. Dovendo evacuare, ho preferito non servirmi del pappagallo, ma raggiungere i bagni fuori dalla stanza, come non mi capitava ormai da 10 giorni. Mi aspettavo che tutti si stupissero di vedermi in piedi e che tentassero di rimettermi a letto il prima possibile. Invece mi sono imbattuto in una grande confusione, gente che andava e veniva, e poiché nessuno sembrava fare caso a me, ho evitato di attirare l'attenzione. Uscendo dal bagno, ho scorto Natalia attorniata da un capannello di persone e ho deciso di non disturbarla. Da una finestra del corridoio ho ammirato la splendida giornata primaverile nel giardino dell'istituto. Guardando meglio attraverso il vetro, ho notato un bagliore tra i tronchi degli alberi. Una betulla aveva la chioma mutilata, parecchi rami erano caduti a terra. Sotto le foglie verde acceso si stagliava una grande sfera trasparente, con un diametro di almeno 12 metri, così imponente che il giardino sembrava essersi allargato per poterla ospitare. Pochi pannelli neri, dall'apparenza metallica, erano distribuiti a macchie sulla superficie. Un'eteronave era appena atterrata. Ecco spiegata la confusione che regnava in corridoio. Ho sceso le scale e sono uscito in cerca di Danny, temendo di non fare in tempo a salutarla. Mentre mi avvicinavo alla sfera, uno dei pannelli metallici ha preso ad abbassarsi. Dall'apertura è uscita una passerella telescopica che si è allungata fino a raggiungermi. All'interno della sfera, oltre le pareti trasparenti, ho visto una decina di sagome dirigersi all'apertura e un attimo dopo schierarsi sulla soglia. Senza nessuna fatica ho percorso la passerella dell'eteronave. Giunto a pochi passi dall'equipaggio, mi sono fermato e ho atteso che uno di loro mi venisse incontro. Si è fatto avanti l'individuo al centro della compagine. Difficile dire quanti anni avesse e di che sesso fosse. Arrivato di fronte a me, ha chinato il capo, molto più largo del mio e con occhi più grandi. «Benvenuto a bordo, compagno Bogdanov», ha detto con un'impercettibile pronuncia straniera, simile a quella di Danny. Dopo lo stupore iniziale, mi sono voltato verso l'istituto. Come se potesse leggermi il pensiero, l'essere mi ha rassicurato. «Non preoccuparti per loro, staranno bene». Quelle parole mi hanno trasmesso un senso di pace. In quel momento ho capito di essere pronto a tornare su Nakoon.